La prima tranche di finanziamenti che ho fatto a Penati l'ho recuperata attraverso Pasini in Lussemburgo. I soldi che ho dato a Penati li ho dati in contanti, certo. Ho sempre denunciato con molta apprensione il fenomeno delle società pubbliche che pullulano specialmente a livello di comuni, province, di corruzione, l'assunzione, l'assegnazione di prebende, consulenze, eccetera. Avanza e avanza ancora la linea della Palma e pure quella degli scandali. E noi sulle orme di Sciascia, dopo tante storiacce, ve la raccontiamo con inchieste, interviste e un obiettivo: dare sempre a ciascuno il suo. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto il sabato alle 8:30 su Radio 24.